Salvadanaio di Deborah Rosciani. Si trattava della terrificante riunione di condominio bimestrale che si svolgeva a turno nelle case dei vari inquilini. Abbiamo fatto lei presidente questa volta. Già. Allora, dichiara aperta la seduta! Di notte! Insomma, non chiude mai l'ascensore! Lei è un moroso! Lei è un cornuto! No, lei deve ancora tirare! Eccole! Uno! Due! Tre! Oh! Ehi! Vada giù a vedere la guardiana! Non lo dica mai, lei è l'amministratore! Vada giù a controllare! Vada! Vada! No! C'è andato! E lei tenga basta quella sua televisione del suo figlio! Dichiaro chiusa la seduta! Arrivederla, buonasera! E allora, sono quasi certa che qualcuno di voi queste scene le ha vissute sulla propria pelle, speriamo non in maniera così intensa, scene di ordinaria follia riproposte dal film Fantozzi subisce ancora liti furibonde, ma se non sono liti furibonde sono a volte discussioni infinite su decisioni da prendere che qualcuno ama ostacolare in ogni modo. Ci sono però anche delle assemblee di condominio che si svolgono in maniera tranquilla e costruttiva. Comunque quello con l'assemblea di condominio è un appuntamento fisso annuale o anche più volte l'anno se ci sono delle decisioni straordinarie da prendere. Il condominio e la stagione dell'assemblea è il tema della guida del Sole 24 Ore in edicola oggi con il quotidiano, un manuale aggiornato anche con tutte le novità più recenti. Nella guida sono illustrate le modalità di convocazione dell'assemblea ordinaria e le maggioranze per deliberare, spazio ai temi forti dell'assemblea di fine anno, l'approvazione del rendiconto e del preventivo, la nomina, la conferma e la revoca dell'amministratore, gli interventi sull'impianto di riscaldamento, per finire con i corretti criteri da seguire per dividere le spese. E allora, quali sono le regole per un corretto svolgimento dell'assemblea di condominio? Oggi anche noi ci interrogheremo su tutto questo con la collaborazione dell'avvocato Augusto Cirla, segretario nazionale di Assocond, l'Associazione Italiana Condomini. Avvocato, buongiorno, bentornato. Buongiorno, buongiorno. Già ridevamo, mi veniva da chiedermi, Fantozzi diceva era il momento della terrificante riunione bimestrale dell'assemblea di condominio, bimestrale, speriamo che non ci siano dei condomini dove si organizza due volte l'anno, può anche due volte al mese, ogni due mesi, scusate, oppure può anche accadere. No, certo, può accadere. L'assemblea ordinaria è una volta all'anno, è l'assemblea nella quale si approva il bilancio, si nomina l'amministratore, si approva il rendiconto, le spese preventive e quant'altro. Però anche durante l'anno è possibile che l'amministratore convochi assemblee straordinarie. Oppure lo stesso condomino può chiedere all'amministratore, due condomini che rappresentino un sesto dei millesimi possono chiedere all'amministratore di trattare argomenti magari particolari e quindi chiedere le convocazioni delle assemblee. E insomma, ne avremo stamattina tante di situazioni particolari da raccontare, perché non ho neanche lanciato la trasmissione nel corso del GR delle 12, ma ho visto già numerosissime mail arrivarci all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Però potete anche, come sempre, chiamarci all'800 24 00 24, scriverci al 349 238 6666. Io voglio ricordarvi anche che alla guida in edicola oggi si accompagna un forum internet, i lettori possono inviare i loro quesiti attraverso la consueta apposita piattaforma che accompagna tutte le guide del Sole 24 Ore. Vi ricordo l'indirizzo, se riesco a trovarlo al volo, www.ilsole24ore.com/condominio. Potete inviare i vostri quesiti fino alle 18 di oggi e insieme all'avvocato Cirla tanti altri esperti risponderanno ai vostri quesiti. Gli argomenti del forum sono l'assemblea, il rendiconto e la contabilità, la divisione delle spese, il riscaldamento e l'amministratore. Domani una selezione delle risposte più significative sarà pubblicata sul giornale e a seguire sul sito internet del Sole. Adesso ribadiamo un po' i termini principali della convocazione dell'assemblea di condominio con la nostra scheda. Quando vivere in un appartamento significa avere a che fare con continue liti per il riscaldamento, per il posto auto o per il cane che passeggia in cortile, si preferirebbe vivere sulla cima di una montagna. Ma nonostante questo, sono oltre 40 milioni gli italiani che vivono in condominio e che si ritrovano quotidianamente a dover fronteggiare piccole e grandi discussioni. Il centro della vita condominiale è rappresentato dall'assemblea, dove si prendono le decisioni comuni e si stabiliscono le regole e le direttive da affidare all'amministratore. Quest'ultimo ha, tra gli altri, l'obbligo di convocare l'assemblea ogni anno per deliberare la conferma e la retribuzione dell'amministratore stesso, le opere di manutenzione straordinaria e soprattutto per approvare il preventivo delle spese occorrenti per l'anno e la loro ripartizione tra i condomini e il rendiconto delle spese sostenute. Il conto economico della gestione riporta in maniera sintetica nelle entrate gli incassi effettuati, divisi per i vari titoli, e nella sezione dedicata alle uscite, le spese sostenute indicando i totali per ciascuna tabella o voce. La situazione patrimoniale è il prospetto più importante del rendiconto, in quanto dimostra la reale situazione finanziaria del condominio. L'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere inviato a tutti coloro che devono partecipare almeno 5 giorni prima della data stabilita e deve contenere, oltre alla data di adunanza di prima e seconda convocazione, il luogo e gli argomenti dell'ordine del giorno. Allora, cominciamo subito, avvocato Cirla, con una bella mail che ci arriva da un ascoltatore, Carlo. Per essere sicuro che gli rispondessimo, ce l'ha mandata due volte, ma è talmente significativa che la prendiamo subito a spunto per iniziare la nostra trasmissione. Allora, Carlo ci racconta che l'ultima assemblea del suo condominio si è tenuta nel 2008 e in quella sede è stato approvato il bilancio consuntivo dell'anno precedente, quindi 2007. Da allora l'assemblea non si è più tenuta, nel 2009 a causa della malattia dell'amministratore, nel 2010 per cause non meglio determinate. Dice lui. Pertanto non risultano approvati i bilanci 2008 e 2009 sia delle spese condominiali che di quelle di riscaldamento. L'amministratore, dice lui, da me interpellato, assicura che quanto prima convocherà l'assemblea per approvare il bilancio 2010 sistemando tutto, quindi una bella sanatoria del passato. Fino ad oggi i servizi condominiali, riscaldamento, pulizia, acqua, vengono erogati normalmente. L'amministratore richiede il pagamento di rate quadrimestrali in base alle spese sostenute gli anni scorsi. Solo pochi condomini, e questa è un'altra situazione seria che si verifica in molti condomini, si interessano all'andamento del condominio, mentre altri sostengono che meno assemblee si fanno, meno sono le spese. Che fare? Si chiede preoccupato Carlo, e ci sono tante domande che ci fa: se l'amministratore deve essere considerato ancora in carica, ci sono responsabilità per i condomini, devo continuare soprattutto a pagare al buio? Cominciamo da quest'ultima, avvocato Cirla. No, assolutamente no, nel senso che l'assemblea è un momento importante per il condominio, e proprio in ordine all'assemblea la legge è rigorosa, perché dice che almeno una volta all'anno deve essere convocata da parte dell'amministratore, al punto che se l'amministratore non la convoca per un biennio è soggetto a revoca da parte dell'autorità giudiziaria su istanza del singolo condomino. Quindi cosa vuol dire? Che il legislatore pone l'attenzione particolare sull'assemblea, perché è in questo momento che i condomini decidono quanto spendere, quanto investire nel proprio condominio e quant'altro. Non è affatto vero che il non tenere le assemblee fa spendere meno al condominio, anzi è un modo, facendo l'assemblea, per collaborare con l'amministratore e quindi controllare le spese condominiali. Quindi, in estrema sintesi, l'assemblea deve essere tenuta almeno una volta all'anno. Se per due anni consecutivi l'amministratore non la tiene, non la convoca, può essere soggetto a revoca, può essere convocata dal singolo condomino, e quindi anche il condomino, se non è per spese non deliberate nell'assemblea, non deve assolutamente anticiparle. È un grave vizio quello che lasciare all'amministratore la totale gestione del condominio e quindi lasciare che sia lui a decidere quali sono le spese. Assolutamente teniamo l'assemblea. Ecco, quindi a questo punto Carlo che cosa può fare? Può lui farsi, non lo so, portavoce di una richiesta di convocazione di un'assemblea? Evidentemente non c'è un consigliere di condominio che è formalmente incaricato appunto dell'intrattenimento, anche del rapporto con l'amministratore di condominio. Certo, ahimè, qui la legge è un po' carente, perché dice che la richiesta dell'assemblea in presenza dell'amministratore può essere fatta solo da almeno due condomini, quindi da solo l'assemblea non può essere convocata dal condomino. Sicuramente può scrivere all'amministratore invitandolo a convocarla, e invece da solo può ricorrere all'autorità giudiziaria, anche senza avvocato, affinché sostituisca l'amministratore, quindi revochi l'amministratore inadempiente e ne nomini un altro. No, stavo anche pensando al fatto che nel frattempo questi condomini hanno comunque continuato a pagare delle rate quadrimestrali, se non ho capito male. Detto questo, probabilmente, chiaramente, resoconto consuntivo non darà un quadro, come dire, ottimale. Probabilmente si troveranno delle sorprese, ma sempre meglio che non aver pagato nulla in questi 3 anni di mancata gestione attiva da parte dell'amministratore, perché altrimenti le sorprese sarebbero state quantomeno qualche acconto l'anno nel frattempo. Meno male. Nel frattempo meno male. Dato, certo. Allora, avvocato Cirla, l'assemblea di condominio è, lei lo diceva prima bene, sicuramente noi siamo partiti raccontando la vicenda di Fantozzi e quanto riporta la cinematografia è luogo effettivamente a volte di molte dispute, molte discussioni, molti problemi, ma è sempre bene comunque partecipare, perché quantomeno quando arriva il resoconto di quello che è stato stabilito non rappresenta mai per ogni singolo individuo una sorpresa, quindi la partecipazione è fondamentale. Assolutamente sì, è il momento nel quale il condomino può esprimere la propria opinione e può partecipare attivamente alla vita del proprio condominio. Dicevo poc'anzi, è il momento in cui si decide le spese. No, il non andare in assemblea vuol dire lasciare ad altri, permettetemi l'espressione, la gestione del proprio portafoglio, perché poi dopo a fine anno arrivano le spese comunque da pagare e bisogna fare i conti con le varie rate da anticipare e quant'altro. Insomma, teniamo presente che le spese del condominio è una grossa voce che va a influire sul bilancio familiare, quindi più lo controlliamo meglio stiamo, appunto partecipando all'assemblea. Infatti è stata convocata un'assemblea della quale non sono stata avvisata, penso perché hanno discusso come farmi cambiare il posto auto parte del rogito perché dà fastidio. È irregolare, chiede Pinuccia. Certo, perché tutti i condomini vanno assolutamente convocati e con anche un certo anticipo di tempo. Sì, salvo quello che il tempo, che il termine che potrebbe essere previsto in un regolamento, che potrebbe essere maggiore di quello stabilito dalla legge, normalmente il condomino deve essere convocato almeno 5 giorni prima del giorno in cui si tiene l'adunanza. Ma attenzione, perché il mancato avviso di convocazione è motivo di annullabilità della delibera, quindi non va a colpirla con un vizio grave quale la nullità. E questo cosa comporta? Che il condomino che non è stato convocato in assemblea deve assolutamente ricorrere all'autorità giudiziaria per impugnare la delibera nei 30 giorni dal momento in cui poi riceverà il verbale. Quindi mettiamola così, che Pinuccia non deve temere niente, perché qualsiasi delibera venga presa in quell'assemblea nella quale lei non è stata convocata non ha validità, comunque lei può impugnare. Deve impugnarla nei 30 giorni. Ci fermiamo adesso per il meteo, un po' di pubblicità, poi andremo anche alle domande degli ascoltatori, cominciando con Giuseppe da Agrigento. A tra pochissimo. Eccoci ritrovati in diretta. Oggi a Salvadanaio ci stiamo divertendo un po', per modo di dire, perché poi per la verità questi appuntamenti sono tutt'altro che divertenti. Parliamo dell'assemblea di condominio oggi sul tema Il Sole 24 Ore pubblica una delle sue guide interattive, perché c'è anche il forum su internet e soprattutto c'è la possibilità per i lettori del quotidiano di inviare molti quesiti a partire da questa mattina presto fino alle 18 al sito ilsole24ore.com/condominio, e molti esperti risponderanno appunto a tutte le vostre domande, alle vostre perplessità sul funzionamento della vostra assemblea di condominio. Noi stamattina ne stiamo parlando, ovviamente come sempre prendendo a spunto anche i casi concreti dei quali siete a volte anche malcapitati protagonisti, con l'avvocato Augusto Cirla, segretario nazionale di Assocon, dell'Associazione Italiana Condomini, e peraltro anche tra gli esperti che risponde anche sul Sole 24 Ore, oltre che autore di numerosi articoli su questo argomento. Allora andiamo alle questioni che ci pongono gli ascoltatori all'800240024, cominciando con quella di Giuseppe da Agrigento. Sì, buongiorno. Buongiorno. Posso parlare? Certo. Sì, la mia domanda è, diciamo, piuttosto semplice. Si tratta di questo: nel caso in cui un appartamento sia di comproprietà di diversi soggetti, per esempio l'hanno ricevuto in eredità, quando si convoca l'assemblea condominiale, a chi deve essere inviata? A tutti i comproprietari o solo a chi ha magari la quota di maggioranza, la maggiore quota? Grazie Giuseppe. Avvocato Cirla, vanno convocati tutti quanti i proprietari? No, anche qua la legge è abbastanza chiara, nel senso che l'avviso di convocazione può essere mandato a uno solo dei comproprietari, sempre che però non ci sia conflitto tra di loro. Quindi se l'amministratore viene a conoscenza in qualsiasi modo, infatti quello è il tema, l'amministratore è tenuto a conoscere anche gli eventuali dissidi familiari, se li viene portato portato in qualche modo a conoscenza. Possibilmente non vorrebbe saperlo, però esatto. Qualora lo sappia. Il caso più tipico, ad esempio, è coniugi separati, no? Con proprietari dell'immobile, ma che l'amministratore sa che sono separati. Allora, in quel caso, l'avviso di convocazione va inviato a tutti i comproprietari. Poi il problema si ripercuote anche in assemblea, perché l'espressione di voto chiaramente non spetta a tutti, allora devono mettersi d'accordo tra di loro i comproprietari e, attenzione, se non si mettono d'accordo, spetta al presidente dell'assemblea scegliere e decidere chi deve votare tra i comproprietari. Quindi avviso di convocazione a tutti se risulta che sono in disaccordo tra di loro, oppure a uno solo se invece risulta che vanno tutti a more d'accordo i comproprietari. Fantozzi, entrando in assemblea di condominio, peraltro, se non mi ricordo male, organizzata a casa sua nella scena del film che abbiamo proposto all'inizio di Salvadanaio, aveva avuto questa simpatica designazione da parte di altri condomini. Lei, abbiamo deciso, questa volta fa il presidente dell'assemblea di condominio. Con che criterio si stabilisce il presidente di ogni assemblea, avvocato Cirla? Direi che va, non c'è un quorum particolare, va un po' a maggioranza dei presenti in assemblea. Anche qua il presidente ha un ruolo fondamentale nell'assemblea, perché è lui che deve dirigerla, è lui che deve dare la parola a un condomino piuttosto che un'altra e deve regolamentare gli interventi. È importante perché un buon presidente rende molto più facile lo svolgimento dell'assemblea e molto più concreto e fattivo. Noi, devo dire, chissà se mi ascolta questa mattina, che invece abbiamo un ottimo consigliere di condominio che veramente si imbarca di tutte le rogne possibili ed immaginabili. C'è anche pure chi ha la faccia di contestarlo in assemblea, mentre io veramente non ringrazierò mai abbastanza, perché non è proprio un lavoro facile, anche se lui ha molto tempo libero. Però essere sempre a disposizione quando si fulmina la lampadina della scala e quando la caldaia in pieno inverno magari si blocca, e quindi anche magari è domenica pomeriggio e chiama, come dire, l'assistenza per risistemare le cose, non sono impegni facili da gestire. Sono persone, ecco, utilissime queste. Accidenti, nel condominio. Mamma mia. Silvio dalla provincia di Napoli, buongiorno, che succede nel suo condominio? Buongiorno. Allora, io sono un affittuario e nel mio condominio regolarmente non vengono fatte delle assemblee, tranne che con i rappresentanti di scala. Io non ho mai ricevuto da 3 anni una convocazione. Quindi lei non è intanto proprietario della casa che occupa? No, però io come inquilino penso, in altre parti ricevevo sempre la convocazione di condominio, ma invece vengono fatte in camera caritatis con un rappresentante di scala. Questo è lecito, in questo tipo di comportamento? Non ricevo mai un verbale di assemblea, niente di niente. Tra l'altro, Silvio, anche capire che dimensione ha il condominio dove sta il suo appartamento. Quante? 16. Se, è un super condominio, avvocato Cirla? Questo? No, in teoria è un condominio normale. Poi ci sono più scale, quindi sono i cosiddetti condomini parziali. No, qua si fa un po' umma, qua insomma solamente i capiscala vengono convocati. È corretto questo comportamento, avvocato? No, non è corretto. Innanzitutto però chiariamo una cosa, l'inquilino ha diritto di partecipare all'assemblea solo per quando in assemblea si discute del servizio di riscaldamento, però per il momento non ha il diritto quindi di essere convocato. L'amministratore deve convocare il proprietario dell'unità immobiliare. Ciò premesso, è sbagliato che l'assemblea si tenga solo con i rappresentanti di scala, perché abbiamo prima detto che è sottolineato che tutti i condomini devono essere convocati in assemblea con regolare avviso di convocazione e quant'altro. Poi nulla vieta al singolo condomino di conferire deleghe magari anche al caposcala di partecipare in sostituzione, ma deve essere una delega volontaria. La figura del caposcala è fantastica. Abbiamo scoperto anche che nella gestione ordinaria delle questioni condominiali c'è anche questa nuova figura. E allora, sempre a proposito di domande fantastiche che ci state mandando, ce n'è una al 349-238-666. No, perché poi stavo immaginando, se le domande che fanno noi si trasferiscono in sede di assemblea, poi capisco per quale motivo saltino i nervi in queste circostanze. Allora, l'ascoltatore ci chiede, avvocato Cirla, se l'assemblea spinge sia il rendiconto consuntivo che il preventivo, paga l'amministratore? Non solo ci fa questa domanda, fra parentesi l'ascoltatore mette anche: vi prego, ditemi di sì. Vabbè, se l'amministratore dovesse pagare le nostre spese, ma non ci sarebbero più amministratori. No, però effettivamente una bocciatura sia di un consuntivo, sia di un preventivo che poi di un consuntivo, avvocato Cira, che cosa comporta? Si blocca l'attività del condominio. Certo, ma è un chiaro messaggio di sfiducia all'amministratore. Beh, certo. Quindi due cose: o l'amministratore immediatamente dà le dimissioni e quindi lascia che l'assemblea ne convochi un'altra, oppure se resiste i condomini devono necessariamente chiedere la sua sostituzione all'autorità giudiziaria, perché il non approvare il consuntivo vuol dire sostanzialmente non approvare l'operato dell'amministratore, quindi è bene che l'amministratore cambi aria. Sì, infatti si faccia da parte. Ancora un altro ascoltatore invece, sempre a proposito di chi viene avvisato della convocazione di un'assemblea con ritardo, Emiliano dice: come la mettiamo con i ritardi causa Poste inefficienti? Sono stato avvisato ad assemblea avvenuta, probabilmente le è arrivata la convocazione ad assemblea avvenuta, e qua la colpa è evidentemente non è di chi l'ha convocata ed organizzata, però quanto tempo prima deve arrivare la convocazione, avvocato, lo ricordiamo, 5 giorni? Almeno cinque giorni prima, teniamo presente, deve arrivare al condomino, quindi i ritardi delle poste, ahimè, rimangono a carico dell'amministratore. L'amministratore che deve fare i conti, quindi non inviare l'avviso di convocazione all'ultimo momento, perché se il rischio che la posta ritardi nella consegna dell'avviso di convocazione al condomino, poi si corrono quei rischi che abbiamo poc'anzi accennato sulla annullabilità della delibera, quindi il diritto del singolo condomino di impugnare la delibera se non ha potuto parteciparvi. Certo, poi probabilmente questo è un condominio nel quale ci sono determinati rapporti. Io faccio sempre riferimento al mio, dove il consigliere ci consegna appunto la convocazione brevi mano, si fa un giretto dopo cena e ce lo porta. Ovviamente poi noi gli firmiamo anche la ricevuta della convocazione che ci è stata rilasciata. Esatto. È corretto per esempio che la lasci nella cassetta della posta senza ricevere alcuna firma, avvocato Cirla? Guardi, sì, perché ci sono sentenze che dicono, partono dal presupposto che in linea di massima il condomino almeno una volta al giorno passi a ritirare la posta, e quindi c'è una presunzione di conoscenza, una presunzione che può essere superata dal condomino che dice che magari può documentare e provare che in quel periodo non si trovava presso il condominio perché è all'estero o via dal luogo dove viene consegnata la posta. Però in linea di massima la consegna dell'avviso di convocazione mediante inserimento nella casella della posta è ritenuto ammissibile e legittimo. Benissimo, allora ci fermiamo adesso, suggerimenti per chi è in viaggio, poi sentiremo Luciano da Bologna, Alfredo da Roma e tanti altri casi all'800 24 00 24 o al 349 238 6666 se volete mandarci dei messaggi, oppure scriveteci. Adesso tenterò di rispondere anche a chi ci sta scrivendo all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. A tra poco. E allora andiamo un po' a sentire ancora da altri ascoltatori cosa succede nella loro assemblea di condominio, che cosa li fa arrabbiare. Ma è possibile che non abbiamo nessun caso di funzionamento, non dico perfetto perché la perfezione non esiste, ma quantomeno soddisfacente? Raccontateci anche di qualche buon modello, magari lo possiamo raccontare anche invece ad ascoltatori insoddisfatti di quello che avviene nel loro edificio. Luciano da Bologna, buongiorno. Buongiorno. Sì. Ascolti, mi riferisco proprio all'ultima assemblea straordinaria. Capisco che è una cosa non semplicissima e poi scriverò a Salvadanaio per avere... Tentiamo di semplificarla, sì. Anche se vuole, anche oggi può scrivere al Sole 24 ore, così magari entro domani avrà una risposta, Luciano. Poi noi rimaniamo un po' più indietro. Comunque ci dica. Anche oggi è Sole 24 ore, è vero, come ho sentito. L'amministratore si presenta all'assemblea straordinaria con una lettera del Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna riguardo all'amianto. Questa dottoressa Grifa, praticamente in questa lettera che l'amministratore, la prima cosa che io le ho chiesto, la lettera che non aveva dato a tutti, perché il comportamento, uno come fa a capire cosa è successo se non ha la lettera, è che io dice, fa riferimento al DM6/994.2b prevede che vengono presi gli interventi di bonifica atti ad eliminare, insomma il suo edificio deve essere bonificato dall'amianto, no? Quindi l'amministratore vi ha informato di questa cosa, che cosa la fa? Come detto, questo qui è un amianto che abbiamo nel portico già protetto, L'USL è intervenuto più volte, ha detto che tutto andava bene, si vede che ci sono state delle denunce pesanti, a un certo punto dice che nel caso specifico le uniche azioni di bonifica che soddisfano le disposizioni di cui sopra sono la rimozione del manufatto o in alternativa il suo confinamento con sovracopertura con altro materiale. Benissimo, allora quindi insomma l'ASL ha detto che questo è il lavoro che va fatto. Luciano, che cosa vi ha detto l'amministratore, perché ci ha chiamato? L'amministratore si presenta prima senza nessun preventivo dicendo che aveva contattato chissà alla fine la ditta valida era quella lì. Tutto questo fa magari pensare male, ma non pensiamo male, che aveva fatto questa che praticamente era l'unica ditta, quindi in una cosa da 100-120 mila euro ci vorrà un preventivo, anche i condomini potranno presentare il preventivo. Sì, sì, certo. E poi presenta solo un preventivo, che è quello molto dispendioso, di cavare, eliminare tutto l'amianto, proprio spostarlo, poi sotto l'amianto c'è anche l'area di vetro, di protezione, quindi un lavoro immane, quando già la lettera dell'uso diceva che al limite confinarlo, cioè mettendoci una copertura sotto il porto che non potrebbe. Allora Luciano, bene. Siccome non voglio far fare tutta la trasmissione a lei, comunque insomma la sostanza della questione l'abbiamo capita, vediamo adesso correttamente come ci si dovrebbe comportare per disciplinare una situazione di questo tipo, che è piuttosto delicata, ne va anche della salute dei condomini. Avvocato Cirla, allora arriva una lettera della ASL, prima cosa, una volta arrivata l'amministratore che cosa fa? Dovrebbe convocare un'assemblea per dirci c'è una situazione straordinaria che è maturata. Assolutamente sì, nel senso che convoca l'assemblea, così come poi per ogni intervento straordinario deve intanto invitare spiegare il problema ai condomini. In questo caso è ovvio che debba intervenire, però già l'ascoltatore ci dava due alternative, cioè o la rimozione o la messa, diciamo così, in sicurezza di questo amianto di protezione, e quindi ovviamente spetta a un tecnico del settore valutare quale sia meglio, se l'intervento l'uno o l'intervento l'altro, e poi in conseguenza fare i preventivi, chiedere i preventivi alle varie ditte specializzate. Trattandosi di importi rilevanti, quali appunto 100, 120, 150, secondo dell'entità del condominio, è d'obbligo dell'amministratore chiedere più preventivi e invitare i condomini a fornirne altri. Così poi in una successiva assemblea si valuta qual è l'impresa più conveniente e più garantista nel lavoro. E come ricade poi sui singoli condomini, naturalmente. Pertanto l'amministratore che si presenta con la lettera dell'ASL, la contestuale anche, il contestuale preventivo di un'azienda che dice questo ce lo farà per questa cifra, arrivederci e grazie, non è un comportamento assolutamente corretto, professionalmente scorretto. Quindi Luciano, se vuole magari un parere scritto un po' più articolato, magari glielo faremo, ci scriva pure a Salvadanaio, oppure io appunto per velocizzare i tempi, se vuole scriva oggi alle sole 24 ore. Allora ci scrive Monica che voleva sapere questa cosa, ci interessava anche a noi, adesso vi leggo il caso di questa ascoltatrice che ci dice volevo sapere se l'amministratore è tenuto a fornire, dietro precisa richiesta del singolo condomino, i contratti dei fornitori di servizi al condominio, e come fare per chiedere ed ottenere la revisione di tutti i contratti in essere con i fornitori caldaista, imprese di pulizia eccetera. Lo dico perché nell'ultima assemblea ho rimandato la decisione di sottoscrivere un preventivo per la sostituzione della caldaia, volendone portare almeno altri due, e quando ho chiesto successivamente all'amministratore di fornirmi quello già in nostro possesso, si è rifiutato. Avvocato Cirla, anche questo non mi pare un comportamento lineare. Sbagliatissimo e scorretto, perché innanzitutto la documentazione condominiale è dei condomini e non dell'amministratore. L'amministratore lo detiene in ragione dell'incarico, ovviamente. Ma c'è di più. Il condomino, in ogni caso, prima dello svolgimento dell'assemblea, normalmente nei 5 giorni prima dell'assemblea, ha diritto di prendere visione di tutta la documentazione condominiale e di estrarne copia. Ma non solo. Anche durante la gestione, quindi durante l'anno di gestione condominiale, può chiedere all'amministratore di vedere, di visionare, di estrarre copia della documentazione condominiale. Quindi questo cosa significa? Non solo contabile, quindi conto corrente e quant'altro, ma anche i contratti con i fornitori, soprattutto nel caso in cui debba essere rinnovato un servizio, quale può essere il riscaldamento o quant'altro. Quindi ogni condomino deve essere posto in grado di valutare e comparare le varie offerte che può ricevere, quindi prendere visione della documentazione. Cioè il messaggio è che lui non può fare quello che vuole, perché l'amministratore di condominio fa un lavoro essendo esplicitamente delegato da un'assemblea, da un condominio, pertanto chiaramente deve ottemperare, può suggerire, può velocizzare molte operazioni. Lo deve fare perché magari ha le cognizioni tecniche, giuridiche maggiori del condomino, però non dimentichiamo che l'amministratore è l'esecutore delle delibere. Mm-hmm. Un primo compito è quello di eseguire le delibere, la volontà. E tradotto in parole molto più semplici, l'amministratore è il braccio del condominio, l'assemblea è la mente. Armato qualche volta, probabilmente qualche amministratore di condominio ha anche voglia a volte di presentarsi armato a qualche assemblea. L'ultima domanda rapidissima, se ce la fa, quella di Alfredo da Roma, è una questione dalla quale siamo partiti e magari per chiudere, Alfredo, rifacciamo il vademecum. Su questi amministratori, da quello che capisco, che non convocano le assemblee, ma io non capisco veramente. Alfredo, buongiorno, rapidissimo. Buongiorno, la mia domanda è questa. A fronte dell'inerzia dell'amministratore per la convocazione dell'assemblea ordinaria, possono i condomini convocare un'assemblea e con all'ordine del giorno la sostituzione dell'amministratore stesso? Grazie Alfredo, avvocato. Allora, certo, per toglierne uno di mezzo che non fa il suo lavoro, che dobbiamo devono fare? Farlo, però la richiesta può essere fatta da almeno due condomini che rappresentino un sesto dei millesimi, quindi come sommatoria, il minimo, se sono di più meglio ancora. L'iter qual è? La procedura è molto semplice, innanzitutto una lettera che deve essere inviata all'amministratore in invitandolo a convocare. Se l'amministratore non convoca l'assemblea nei 10 giorni dal ricevimento di questa lettera, lo possono autoconvocare i condomini. Benissimo. Per decidere appunto la sostituzione dell'amministratore. Rapidissimamente, c'è un'ascoltatrice che ci scrive: l'amministratore del palazzo dove sono proprietaria ma non abito mi invia la convocazione tramite mail, io gli ho più volte chiesto, preferisco che tu mi telefoni. È corretto il suo comportamento? È corretta la richiesta dell'ascoltatrice di Rosa che dice voglio che mi telefoni? Se lui deve telefonare sì, a tutti, però il problema è questo, che non è un obbligo dell'amministratore telefonare a tutti i condomini. È una gentilezza. Esattamente, lo fa per cortesia, ben venga. Però tenga presente che l'amministratore poi ha l'onere della prova di dimostrare che ha avvisato il condomino. Rosa, magari si faccia anche avvisare da altri vicini se ha dei buoni rapporti, però insomma deve esserci un atto minimamente formale. Avvocato Cirla, grazie. La lascio tornare a divertirsi con i suoi casi che probabilmente in ufficio esamina dalla mattina alla sera. Vi ricordo ancora la guida pratica del Sole 24 Ore di oggi. Grazie a Gaia Romani, a Pietro Lacorte. Noi torniamo domani. Buona giornata.